vuoi venire a morire? A stornellare, porta del vino e metti di sedere. Puntata numero 2 di Ratto di Campagna, Topolino di Città, il programma di Radio Big World che esplora il mondo del vivere nelle metropoli per coloro che nelle metropoli non ci vivono, per coloro che anzi vivono in piccole polis e spesso manco di polis siamo in grado di parlare, ma che vedono, sognano, stanno vicino, frequentano la grande città. Quindi una specie di manuale, di etichetta per non passare troppo da campagnoli. E campagnolo sono io, quindi difficilmente sarò in grado di darvi delle indicazioni. La grande città la vivo molto di riflesso e in parte un pochino mi spaventa, perché ho i miei trattori, i miei animali, le galline che beccano fuori nel piazzale della stazione. Ma invece chi vive in città, chi conosce a menadito i meandri del vivere nella giungla urbana e di cemento è Laura! Carissimo, ciao! Buonasera a tutti! Laura, oggi l'argomento che mi piacerebbe sottoporti per vedere se caviamo qualcosa e se impariamo qualcosa di più rispetto a quel poco o pochissimo che sappiamo adesso, e parlerei di trasporti e in particolare del trasporto pubblico. Ai noi, non molto gradito in generale. Quindi Firenze, il trasporto pubblico sono... Tasto dolente. D'accordo. Ti dico qual è la mia condizione di partenza. Per noi il trasporto pubblico, per noi di campagna, è sì il treno che ci porta lontano con la stazione formalissima, sta arrivando il treno per Roma, per Firenze, per Milano, oppure la corriera. Insomma, sì, dei bussoni, a volte sono pure bus di linea che assomigli... Allora, già ti dico che corriera a Firenze non lo sentirai mai dire da un fiorentino. Già questo vi caratterizza. Cos'è la corriera? Il pullman. La corriera, sì, è il quello pullman. Quello blu. Eh sì, e di fatto è anche abbastanza semplice da usare, perché si va da un paese a un altro e uno non c'è verso che sbagli la fermata. E ha tutto il tempo di chiedere all'autista poi, no? Anche quello. Perché tutti stanno a sedere, nessuno intasa il corridoio o comunque lo spazio vicino all'autista, e tu hai tutto il tempo di alzarti con calma dal tuo comodo sedile, andare davanti e chiedere se il prossimo paese, la prossima fermata è quella che fa il caso tuo. Quindi insomma la corriera, come dite voi, è sicuramente il mio mezzo di trasporto pubblico preferito. Bene, pensate pure quelli di città qualcosa in fondo. sì, sicuramente, perché si sta comodi, ecco. Posto sedere lo trovi quasi sempre, molto spesso hai anche il tempo di farti un riposino, tiri giù il sedile e ci stai bene. Questo è. Mentre in città le cose si complicano, perché la corriera lascia il posto all'autobus. Una giungla di orari, di linee, di colori, di fare il cambio qui, scendi di là, scendi di sotto, pigia, questa è a richiesta, questa non è a richiesta. Insomma, come si fa a capirci qualcosa, Laura? Allora, innanzitutto gli orari sono sempre stati un'incognita per me, nel senso che per fortuna quando prendevo io l'autobus quello che serviva a me passava spesso, quindi quando passa, ma ora passa, insomma non stavo dietro agli orari. Infatti ricordo una mia amica che veniva da un paesino, mi disse: a che ora c'è l'autobus per andare in centro? E io dissi: boh, che ora c'è? Cioè a tutte le ore. Quindi insomma questo una visione un po' ottimistica, però anche abbastanza realistica, perché certe linee funzionano, insomma, e non c'è bisogno di stare con l'orologio sott'occhio per prendere un autobus e andare in centro. E solo che, ecco, le note dolenti sono più di quelle positive. Allora, cosa mi hai chiesto? Come si fa a imparare? Ma sai, come tutte le cose, usandole si impara, quello alla fine non è tanto difficile. Io a che età, per esempio, Laura, hai imparato a usare l'autobus? Io già all'elementare andavo a scuola in autobus, in quinta elementare, ma erano poche fermate, eravamo un gruppettino di ragazzine, quindi era facile. Non è difficile effettivamente, se magari non devi cambiare o se conosci la linea, se conosci insomma il percorso che devi fare. E poi io ho sempre domandato a passanti, agli autisti, non mi è mai mancato il coraggio di dire: oh, ma qui dove si va? Come si fa? E chiedendo. Io penso che anche adesso che c'è internet sono rimasta un po' a questo vecchio metodo della domanda diretta, chi ne sa più di me. Questo mi ha sempre portato a destinazione, bene o male. Cambiare autobus molto spesso non è facile, soprattutto ultimamente, che Firenze è invasa dai lavori, dai cantieri, e ti possono cambiare la fermata dell'autobus da un giorno all'altro. Quindi se il mese scorso andavo a prendermi tranquillamente un autobus in Piazza Indipendenza, il mese dopo non c'è più la fermata in Piazza Indipendenza dello stesso autobus. E allora chiedi e qualcuno ti dà consigli giusti, indicazioni giuste, altri te ne danno sbagliate, ma insomma alla fine ce la fai, ecco, a imparare. Non è quello il punto. Il punto è che molte volte l'orario non è rispettato, oppure l'autobus è talmente pieno che lo prendi, ma insomma ti girano un po' le scatole, preferiresti un'altra soluzione. E Laura, tu che sei mamma e quindi da questa esperienza dell'imparare a usare l'autobus e il mezzo pubblico in qualche modo ci sei passata, come lo insegneresti a tua figlia per evitare gli errori che tu hai fatto quando hai cominciato? Ma guarda, gli errori non si evitano, dai, gli errori di questo tipo sono comunque utili per imparare, perché se sbagli da solo la volta dopo, insomma, ci stai più attento. Invece se ti fai guidare, come in tutte le cose, no? Se stai da solo e sbagli, poi dopo la volta successiva non sbagli più. Invece se c'è qualcuno che ti dice cosa fare, quando cambiare, eccetera, ti rimane meno impresso nella memoria il percorso. Vabbè, però è ovvio che all'inizio mia figlia la porterò con me, se proprio vorrò farle prendere l'autobus, diciamo che non sono proprio un amante dell'ATAF. Magari il tempo, il progresso farà sì che il servizio migliorerà, allora quando ci porterò mia figlia sarà tutto migliore, dai, auguriamoci questo. Comunque la porterò con me e poi la lascerò esplorare le varie opzioni. Anzi, mi ricordo che io alle scuole medie con una amica, vabbè, l'appuntamento fisso era in centro, quindi l'autobus che andava in centro, come ho già detto, era semplice, no, da usare. Però a volte, se volevamo cambiare routine del sabato pomeriggio, prendevamo un autobus qualsiasi, a caso, senza sapere dove ci portava, per arrivare in un posto appunto qualsiasi e scoprire un angolo della città nuovo e divertirsi così a vedere strade nuove, posti nuovi, totalmente in modo casuale. Ma è stato divertente. Sì. Quello sì, è stato molto divertente, è una prerogativa della città questa, di sicuro. E prerogativa della città è il traffico, un traffico titanico all'ora di punta, un traffico comunque intenso per il resto della giornata. L'autobus e il traffico. Allora, io sono intollerante al traffico, quindi mi è successo a volte di scendere prima e andare a piedi perché non sopportavo l'autobus che andava a passo d'uomo. Soprattutto se magari l'autobus è pieno, zeppo, e non ti puoi sedere, allora insomma io vado a piedi, preferisco. L'autobus e il traffico, sai, l'autobus dovrebbe nascere proprio per ridurre il traffico, per ridurre l'uso delle auto private. Questo bisognerebbe vedere i numeri, bisognerebbe vedere insomma tante cose. Non sono molto... Non valuto molto positivamente il servizio dell'autobus fiorentino, ecco, vedremo, dai, cosa succederà nei prossimi anni. Però per il momento non ti fa sorridere troppo. Nota dolente, te l'ho detto. Come gli autobus corrono per Firenze, corrono quando non c'è traffico, che vanno a passo d'uomo, anche gli autobus si fermano, e si fermano per sciopero. Ora sai, da noi quando è sciopero, vabbè, qualche anziana che non andrà all'ospedale a farsi una visita così per passare il tempo, o magari andrà una volta meno al cimitero. Povera anziana, magari le serviva quella visita proprio quel giorno. Vabbè, ci mancherebbe, è chiaro, lo sciopero crea degli svantaggi, ma alla fine, se da noi scioperano i torpedoni, solo pochi utenti sono interessati da questo sciopero. Quando invece si sciopera in città, le cose cambiano, perché è il caos, Laura. Sì, il traffico è sempre caotico e i giorni di sciopero dei mezzi pubblici raddoppia e niente da dire, solamente magari sperare di avere l'influenza di rimanere a casa e di non dover andare a lavorare. Non ci sono molte soluzioni alternative, o se no scarpe comode a piedi. Perché se scioperano i mezzi pubblici o si va a piedi o si va con un mezzo privato, non c'è altra soluzione. Appunto. E quindi, che dire, i mezzi privati, già, guarda, quando sei sull'autobus e vedi tutte le macchine che ti circondano, in ogni macchina c'è una persona sola, pensi, boh, magari quella persona se prendeva l'autobus e lasciava a casa la macchina. Però poi, ecco, sono la prima e il fiorentino è il primo a dire, ma che faccio, prendo l'autobus? Cioè, è proprio l'extrema ratio per noi. No, vado in macchina, e poi se qualcuno osa consigliare, ma vai in autobus? No, sì, prendo l'autobus. No, faccio un intero a meno. Ma sai anche perché molto spesso per la gente che ci trovi sopra, che sì? Sì, se è troppa, insomma, dà veramente fastidio, anche dal punto di vista olfattivo, soprattutto d'estate. Bene, comprendo. D'altra parte, la mamma degli strulli è sempre incinta, quindi gli strulli sono dappertutto, solo che in città rispetto che in provincia sono più concentrati e in un luogo più ristretto, e spesso si concentrano sugli autobus. Ma sì, anche dai, a Firenze? Sì, abbastanza. Infatti, se c'è una categoria che non invidia, è quella degli autisti del NATAF, che molto spesso devono rispondere a delle domande veramente, come dite voi, strulle. Ce n'è di tutti i tipi, dallo strullo simpatico allo strullo molesto, sperando solo di incrociare più strulli simpatici che molesti, ecco. Ma un tipo bizzarro che ti è capitato di incontrare, per esempio, che ti è rimasto impresso? Tipo bizzarro, mi è capitato di incontrare un uomo che con 40 gradi, che aveva il cappello, i guanti, una volta non ho osato chiedergli perché, per come, perché molto spesso mi piace anche parlare con gli sconosciuti sull'autobus, quando te li trovi di fronte, magari sei seduto in questi edili che si guardano a vicenda, allora magari due chiacchiere le fai volentieri, ecco, questo è una nota a favore del trasporto pubblico anziché della propria auto. Però ecco, quella volta mi domandavo dentro di me, ma questo, ma non avrà caldo? Però non ho osato chiederglielo e niente, ci rimarrà il dubbio. Qui si direbbe paralu caldo, paralu freddo, quindi evidentemente. Sì, sì, è quello che dicono anche nel deserto, quelli che stanno tutti coperti con 50 gradi. Quindi guarda, non hai detto una cosa molto campagnola, hai detto una cosa da cittadino del mondo. Veniamo al trasporto pubblico per eccellenza a Firenze, che è la tranvia, la mitica tranvia. Se ne è parlato sui giornali, chiunque fosse di Firenze e della fascia intorno ne ha sentito parlare, ha sentito i fiorentini che si lamentavano, insomma, questa tranvia, che poi alla fine è un tram simile a quello che c'è in tante città europee, e effettivamente collega il centro di Firenze con le sue parti più periferiche, più strategiche. Le nuove due linee andranno a collegare tanto l'ospedale di Careggi quanto l'aeroporto con il centro. Ma insomma, questa tranvia, Laura, spiegacela un po' a noi che i tram li abbiamo visti solo in cartolina. Ma che ti spiego? Allora, la linea 1 è attiva da anni, che collega Scandicci al centro, è molto ben gradita da chi abita a Scandicci, perché insomma per loro è comoda. ma per me, chiuso la mia macchina, insomma, la carreggiata era molto più grande prima e quindi facevo molto prima quando non c'era sta tranvia. Però vabbè, effettivamente va solo, ecco, no, anche gli utenti più fedeli della tranvia si sono lamentati di una cosa: ma quanto è lenta sta tranvia. Ah sì? Cioè, una ragazza d'Arezzo, ricordo, in un bel aretino stretto, disse: allo, ma che un omino col treppiede andava più veloce. Sai perché? Perché hanno fatto le fermate molto ravvicinate e quindi, cioè, non fa in tempo a ripartire che quella si riferma. Insomma, sulla velocità vuoi mettere una bella metropolitana che, insomma, come sarebbe stata più rapida, però tant'è. Questa linea 1, vabbè, funziona, collega Scandicci a Firenze. Per la linea 2 e 3 bisogna aspettare che vengano terminate, si vocifera giugno, insomma, sarebbe auspicabile, non so se sarà vero. Per ora è solamente un gran caos, perché che significa il caos? No, non è descrivibile. Ma perché ci sono i lavori, ci sono gli operai? Ci sono i cantieri, attenzione, ci sono i cantieri aperti e molto spesso gli operai non li vedi e ti domandi: ma lavorano o non lavorano? E niente, le macchine che prima erano spalmate su una strada larga abbastanza, insomma, alla fine i viali di Firenze avevano sì le loro criticità, però erano strade larghe a ampio scorrimento. Adesso c'è un quarto dello spazio, le auto sono le stesse, ti lascio immaginare, code su code, c'è careggi da raggiungere, insomma, i disagi sono notevoli, pensa anche a un'ambulanza che deve portare un malato a careggi e non vola. Ora, quando la tranvia sarà fatta, vedremo, io insomma rimango un po' scettica, da buona fiorentina preferisco il mio mezzo privato, però vediamo, dai, che succederà, non vogliamo fare per forza quelli che criticano a tutti i costi, aspettiamo e vedremo. E allora, cari ratti di campagna, mi auguro che siate di una specie un po' meno grezza della mia, abbiamo imparato che per passare bene coi fiorentini, uno degli argomenti, di solito con gli inglesi si parla del tempo, piove, non piove, coi fiorentini si parla di trasporto pubblico e ci si lamenta. Diceva, lamentarsi a prescindere va bene, è sempre un argomento ben gradito. E passa bene chi ha rifiutato di andarsene con l'autobus o con la tranvia e ha preso la macchina. Altro che trasporto sostenibile, insomma. Si chiude qui questa puntata di Ratto di Campagna Topolino di Città con Giorgio il Popolano e il Campagnolo e con Laura invece che è aristocratica e vive in città. Falla finita. Un bacio, a presto!